Ottobre piovono libri. Oggi vi portiamo a Bitonto, in provincia di Bari, in particolare nella libreria fumetteria Hamlin, che ogni giovedì propone letture di fiabe e laboratori per bambini. Sentiamo. Un mattino di primavera, la mamma svegliò Cappuccetto Rosso molto presto. Un piccolo scrigno colorato da fiabe, un laboratorio di fumetti, un salotto letterario per bambini e non solo, dove le parole d'ordine sono fantasia e creatività. È la sfida di Giovanna Lomangino e dei suoi collaboratori che hanno dato vita a Bitonto, nel barese, alla libreria Hamlin, punto di incontro tra lettori, autori ed educatori. Mi sta leggendo Mami la sera, Enea. E di che parla, te lo ricordi? Della guerra a Troia. Che fiaba hai ascoltato oggi? Una diceva la storia che la nonna si sposò con il principe. Invece l'altra di una bambina che si chiamava Cappuccetto Razzo e che correva dappertutto senza ascoltare il finale che gli diceva la madre. I libri della fantasia è il titolo di una delle iniziative che la libreria ha organizzato per ottobre Piovono Libri. Chiara Bitetti, coordinatrice dei laboratori di manualità creativa. Il laboratorio che abbiamo pensato per questo, diciamo, per questo avvenimento ottobre Piovono Libri è quello di fare un libro un po' particolare, un po' fantastico, non fatto di parole, ma fatto più che altro con immagini, usando poi diverse tecniche e diversi materiali. Letture musicali, dibattiti proseguiranno sino al 28 ottobre e non solo nel segno del fantasy. La libreria Hamlin si unirà così a tutti gli altri luoghi di Bitonto, biblioteche, scuole, palazzi antichi, che accoglieranno gli amanti della lettura. Vanessa Colangiuli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari. Fra i prossimi appuntamenti alla libreria Hamlin di Bitonto, segnaliamo venerdì 16 ottobre l'incontro dedicato a genitori e insegnanti con l'autore Ferdinando Albertazzi per parlare del tema della diversità. Tutte le informazioni sulle iniziative di ottobre Piovono Libri su www.cepel.it oppure radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco. Ottobre Piovono Libri, in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura.